Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Covid-19 non rallenta la marcia dei contagi. A Obiettivo Salute il commento del professor Sergio Arari, direttore della pneumologia del San Giuseppe Multimedica di Milano e professore di medicina interna all'Università di Milano. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno. Professor Arari, ci aiuta a leggere i dati? Io credo che i dati più importanti siano quelli relativi ai ricoveri, anche perché il numero dei contagi varia in funzione dei tamponi. È chiaro che i ricoveri sono in funzione del quanto il virus circola, e se noi guardiamo, purtroppo nelle ultime 8 settimane i ricoveri sono aumentati gradualmente ma costantemente ogni giorno, quindi non tantissimo ma in maniera costante. Così i ricoveri, diciamo, nelle medicine in generale, nelle pneumologie, nelle terapie semi-intensive, e altrettanto i ricoveri in terapia intensiva. E questo è un dato, purtroppo, che ci preoccupa, perché il trend è costante nel tempo. Professor Arari, rispetto al marzo scorso, in che cosa è cambiata la situazione oggi? È cambiata prima di tutto perché possiamo assistere tutti i pazienti, perché non abbiamo l'onda d'urto che abbiamo avuto durante la fase più acuta dell'epidemia. E la seconda cosa è che la mortalità, grazie al fatto che abbiamo imparato a gestire i pazienti meglio, anche se non è che abbiamo tantissime armi contro questo virus, è crollata in maniera molto significativa. Grazie al professor Arari, che resta con noi nel nostro incontro quotidiano, che potete seguire sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Le nostre video interviste a tu per tu insieme al professor Arari continuiamo a commentare la situazione, parleremo naturalmente di mascherine, parleremo di terapie, di vaccini, di tutto quello che ci aiuta ad affrontare con la giusta consapevolezza, con le giuste informazioni, questa situazione. Vi auguro una buona giornata. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.